cioè dal caos che c'era qui sul canaletto, ci sono veramente 30 metri, no, 50 in linea d'aria, e lì in mezzo veramente sembra un altro. Questo, ad esempio, è anche dentro il quartiere della Sacca, effettivamente, c'erano dei momenti quasi di silenzio che sono quasi impensabili in questo contesto. L'attenzione mediatica sbagliata che c'è verso questo posto, che diciamo tende a travisare la realtà, tende a spostare il punto del problema, tende a raccontare le cose come non sono in realtà. Poi è chiaro che questa è una Sacca, diciamo, periferica di città, che si porta dietro tutta una serie di problemi legati all'urbanistica, alla storia di come è stata abitata, di come è abitata adesso, però sembra una colpa. Molto spesso sembra che sia colpa di chi ci vive. Da fuori, ma anche da dentro, percepisci questa cappa di questo stigma fortissimo che c'è sulle persone che abitano qua e sul luogo, no? E poi ci vai dentro e te puoi stare 10 giorni, 10 ore al giorno al Parco 22 Aprile, non ti capita niente. Anzi, già conosci 600 persone che hanno voglia di stare lì sulla panchina a chiacchierare. E non è che hanno altri bisogni delle volte, no? Osservi bene quelle persone che diffamano tanto sto viale che secondo me ha qualche problemino a livello di intelletto. Perché buoni e cattivi sono dappertutto. Poi se qualcuno vuole dire il contrario, che lo venissi a dire